Bene, siamo a Visionari il giovedì dalle 14 alle 15, il cinema su Radio Onda Rossa. Tutte le informazioni le trovate per quanto riguarda la puntata di oggi, ma non solo, sul sito internet della radio ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per la diretta ci ascoltate sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming, sempre dal sito internet della radio. Sulla homepage c'è l'opzione ascolta la diretta. Ecco, noi Daniele Gaglianone, regista del documentario Qui, in uscita in sala oggi giovedì 27 novembre. Daniele, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie a tutti. Si parla di TAV, si parla di no TAV. Dici un po' com'è cominciata questa storia per quanto riguarda il tuo interesse a farne un documentario. Guarda, innanzitutto io vivo a Torino e quindi vivendo a Torino questa è una vicenda che si sta svolgendo, si è svolta sotto casa mia, ecco, praticamente. Sì, sì, sì. E quindi il primo interesse, diciamo, quasi naturale è stato questo, insomma, andiamo a vedere cosa sta succedendo. Io non ero proprio all'asciutto, nel senso che comunque abitando appunto lì conoscevo degli amici già in valle, o comunque insomma la situazione la conoscevo già, e ho deciso di intraprendere questo viaggio, diciamo, facendo questi 10 ritratti di persone che, partendo anche da vissuti molto diversi, si sono ritrovati a doversi confrontare, loro malgrado, con una situazione che è stata fatta scivolare da una problematica economica, sociale e politica sul piano inclinato dell'ordine pubblico. E quindi è un film dove quasi ossessivamente i protagonisti ripetono appunto la parola che dà il titolo del documentario, Qui, che è una parola minuta, semplice, dimessa e, come dire, innocua, che però nel corso del documentario diventa molto potente, perché quel qui ti rendi conto che è ovunque, nel senso che al di là della vicenda della Val di Susa, ci si rende conto che il racconto del film, fatto dai racconti dei protagonisti, diventa quasi una riflessione su che cosa vuol dire essere cittadini di una democrazia occidentale, quando il concetto di democrazia entra profondamente in crisi, come nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, quando hai la sensazione, la percezione che il patto che regga tutto si incrini fatalmente, quando tu non riconosci più nell'autorità quell'autorevolezza che la legittima, non percepisci più l'autorevolezza e quindi l'autorità, hai la percezione che diventi autoritarismo. Insomma, questo è il nodo del film, secondo me. Poi è chiaro che il punto di partenza è quello della valle, perché credo che la situazione in Val di Susa sia una situazione da sempre paradigmatica. Spesso nelle situazioni estreme emergono delle cose che sono latenti nel corpo della società, e quindi anche in questo caso è così. E quindi diciamo che ormai questa rottura tra la percezione dei cittadini e delle istituzioni, e le istituzioni mi sembra evidente, che va molto al di là delle questioni della Val di Susa, di facciamo questo buco o non lo facciamo, ecco. Anche il titolo dà anche l'idea dei dati che poi vengono alla mano, cioè che la popolazione valsusina è quella con la percentuale di più alti inquisiti per le lotte. È la zona d'Italia dove ci sono più cittadini che hanno in proporzione alla popolazione della valle, è la zona d'Italia in cui ci sono più procedimenti giudiziari a carico di cittadini, sì. Più delle zone dove insomma ci aspetteremmo di dire che sono quelle, tipo quelle che insomma sappiamo tutti che magari dominate le organizzazioni criminali, eccetera eccetera. E è un record che dovrebbe fare un po' riflettere, perché anche questo è il segno tangibile che qualcosa si è rotto, perché del resto, guardando il documentario, secondo me non si può non pensare, uno, all'immagine che i media mainstream, diciamo, hanno dato di questa gente in questi ultimi 20 anni. La cosa più gentile che gli hanno detto è che erano nimby, ma proprio siamo proprio la cosa più gentile che gli hanno detto che erano dei bifolchi montanari. Sì. E dare del nimby nati mai vecchi alla gente che vive in una valle dove ci sono già 2 statali, un'autostrada, una linea ferroviaria, dove passa una roba che si chiama TGV, tren gran vitesse, dove passano già i carichi merci, insomma, vuol dire proprio non sapere di cosa si sta parlando, e soprattutto credo la cosa più grave è neanche volerlo capire. Sì. E quindi insomma l'esigenza è anche un po' quella di provare anche come spettatore, insomma. Io avrei voluto vedere in questi 20 anni, 25 anni un film così, no? Che sì, mi raccontasse, che mi facesse ascoltare queste voci e vedere questi volti. E allora me lo sono fatto da solo, insomma. Ecco, proprio a questo proposito, Daniele, come hai scelto i tuoi interlocutori? Ma guarda, io li ho scelti, come dire, come faccio spesso quando scelgo il documentario come dispositivo, ecco. Sono partito e ho detto incontriamo la gente e poi vediamo, insomma, vediamo dove andare, facciamoci guidare da quello che incontriamo. Ho incontrato un sacco di persone, alcune molte non sono finite nel documentario perché sennò durava 5 ore, ma io ho voluto cercare di dare il più ampio spettro possibile di tutte non le anime del movimento, che è vero, però è una frase un po' retorica forse, poi di tutti veramente i vissuti le esperienze diverse che queste persone hanno, cioè i loro percorsi che a volte partono da punti veramente molto distanti, no? Che poi si ritrovano tutti su questa ferita, ecco. Mm. E su questa incrinatura. L'idea appunto era quella di far vedere anche la ricchezza umana, ecco. Io penso che di fronte a queste persone uno può, al di là di quello che uno pensi appunto di questo maledetto buco, facciamo o non facciamo, però non può non avvertire un senso di umanità che proprio mi trovi a vedere, perché siamo sommersi da una umanità di plastica che ci viene somministrata dai media, che è veramente sembra appartenere a un altro solare, ecco. E quindi ecco, io il minimo sindacale che chiedo il minimo sindacale come fatto, diciamo, è che lo spettatore finito il documentario dica: ah, potrei essere al posto loro. Poi io, questo è un film diciamo partigiano, non è fazioso, non è un film, non è un volantino, io non voglio convincere nessuno, però vorrei che le persone, che vorrei che questo fosse, al di là delle polemiche che ci saranno, che forse ci sono già, però io vorrei che questo sia un'occasione per riflettere. Sì. Perché come c'è scritto nel verso finale che chiude il film, no? Se l'asse cede, la voce affonda, c'è qui nell'aria la parola ramo che ci tiene, ecco, parliamo, aggrappiamoci a questa parola ramo sperando che non si spezzi. Mm-hmm. E quindi, insomma, per quanto si alza la tensione, per quanto si torni siano esasperati, però io faccio appello alla disponibilità, all'ascolto, insomma, che mi sembra perduta, gli estremismi che non sono tanto qui nel movimento, per me mi permetto di dire, perché è anche estremismo, che ne so, raccontare la Val di Susa come se fosse l'Irlanda del Nord degli anni 70. Sì. È estremismo decidere di svolgere un processo per degli scontri, per carità, scontri duri, in un'aula bunker dove processi mafiosi e terroristi. estremismo, appunto, da parte dei politici, della classe politica, di trattare, cioè considerare queste persone appunto la cosa più gentile che gli hanno detto era quella di prima, che erano nimbi, cioè anche questo è estremismo, queste sono cose che esasperano. E cioè è una situazione dove bisognerebbe quantomeno fermarsi e dire cerchiamo di capire. Daniele, oggi in uscita, come, che modalità? Allora, le modalità sono quelle, diciamo, nostre, anche se la parola non è mia, no? Però insomma mi sento parte integrante di questa piccola macchina, non da guerra, però la Pablo, noi, la Pablo, come dire, non ha la forza, ma credo che sia anche il suo punto di forza di non essere una distribuzione di sistema, no? Quindi non possiamo uscire, no, usciamo nei cinema in Italia nel 27, usciamo in crescita importante, intanto Roma, Milano e Torino. Roma stasera al Nuovo Aquila, a Milano usciremo al Palestino il 1 dicembre, a Torino al Cinema Classico o il 4 o il 10, e poi come dire, forti dei contatti che abbiamo anche come dire, consolidato con la distribuzione della mia classe, che ha toccato comunque 250 cinema, stiamo vedendo che l'interesse è molto alto, e quindi credo che tra dicembre, gennaio, forse anche febbraio il film uscirà, e spero che tocchi il più ampio territorio possibile, ecco. Quindi è con uscita macchia di leopardo, ma che secondo me può essere molto efficace per un film così. Tra l'altro, ecco, il 28 c'è anche una proiezione in Val di Susa ad Avigliana, dove stiamo cercando di far vedere il film anche in tenitura, insomma, il cinema della valle, ecco. Ma ripeto, no? Io qui ritorno al titolo, certo che è un film sulla Val di Susa, ma è un film sull'Italia, se mi posso permettere di dire. Quindi è veramente un film che mi sento di dire che andrebbe visto da Siracusa fino a Bolzano, ecco. Bene, Daniele, io ti dico in bocca al lupo, ci sentiamo presto, t'abbraccio. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Daniele Gaglianone, regista del documentario Qui, in uscita in sala oggi giovedì 27 novembre. Sandro. In collegamento con Alessandro Stellino del Filmmaker Festival 2014, che prende l'avvio a Milano il 28 novembre, andrà avanti fino all'8 dicembre. Alessandro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi, buon pomeriggio. Quante edizioni intanto del Filmmaker? Ma Filmmaker ne conta tante, più di 30, perché la prima è stata nel 1980, quindi sì, ci avviciniamo ai 35 anni, ecco. Allora, intanto per chi ci ascolta, le caratteristiche di questo festival? Ma dunque, Filmmaker è un festival molto radicato nel territorio, quindi con un forte legame con la città che lo ospita, che è Milano, perché da Filmmaker sono passati un po' tutti gli autori, tutti i registi che fanno cinema da queste parti, ecco, storicamente da Lina Marazzi a Silvio Soldini e tanti altri, quindi questa è sicuramente una delle caratteristiche che lo connotano in maniera più forte. E poi si tratta di un festival fin dall'inizio quasi dedicato al cinema documentario o al cinema di ricerca, comunque con una forte attinenza al reale, ecco. Le caratteristiche dell'edizione di quest'anno, com'è strutturato? Ma allora, il festival è strutturato per mezzo di, diciamo, 4-5 grandi linee portanti che un po' ne definiscono la programmazione. Da una parte c'è un concorso internazionale che presenta una decina di titoli, scelti un po' tra quanto di meglio abbiamo visto nel corso dell'anno. Poi abbiamo una sezione dedicata ai giovani, per così dire, quindi una sezione che si chiama Prospettive, in cui presentiamo altrettante opere fatti da esordienti o registi alla prima, seconda, terza opera. Abbiamo poi un ampio spazio dedicato in maniera netta al cinema sperimentale, che si chiama Fuori Formato, all'interno del quale abbiamo un omaggio a uno dei più importanti registi del panorama sperimentale internazionale, che si chiama Peter Cherkassky, che è austriaco e che sarà qua a Milano intorno a metà della settimana prossima per due programmi sui suoi film, e poi abbiamo la retrospettiva, perché ogni anno Filmmaker dedica, da un bel po' di tempo a questa parte, una retrospettiva completa ai grandi maestri del cinema documentario. Quindi sono passati di qua un po' tutti i grandi nomi che hanno fatto la storia del documentario, da Wild, a Errol Morris, a Ross McElwee l'anno scorso, e quest'anno abbiamo Lech Kowalski, che è un regista di origine polacca che ha vissuto a lungo negli Stati Uniti. Quante sono le opere che presenterete in questa edizione? Ma sono quasi un centinaio, devo dire, perché ci sono tanti corti e quindi alcuni sono raccolti all'interno di programmi compositi, però sono quasi un centinaio, sì. Mm-hmm. Sì. In chiusura diamo i riferimenti internet per la programmazione? Sì, si trova qualunque informazione sul festival, quindi concernente non solo gli orari e i luoghi delle programmazioni, ma anche poi le informazioni legate ai singoli film e ai singoli eventi, su filmmakerfest.com. Benissimo, io t'abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, crepi, e a presto, e buon lavoro a voi. Ciao. Arrivederci. Alessandro Stellino del Filmmaker Festival 2014 a Milano dal 28 novembre all'8 dicembre. Francesca Bolognesi, organizzatrice della quarta edizione di Cinemondo, il cinema in Cambogia, Laos e Vietnam, all'Accademia di Francia a Roma, Villa Medici, da oggi 27 novembre fino al 3 dicembre. Francesca, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a voi. Allora, raccontaci un po' le caratteristiche di Cinemondo. Sì, allora, come dicevi, stasera appunto diamo inizio alla quarta edizione di Cinemondo, che ogni anno invita un paese, una zona geografica del mondo, e quest'anno appunto volgiamo lo sguardo verso la Cambogia, il Laos, il Vietnam, con un calendario ricco di proiezioni e di eventi, e soprattutto con un grande ospite d'onore. Mm-hmm. Allora, tre nazionalità, quante opere saranno visionate? Presenteremo una quattordicina di film, con però appunto un calendario arricchito da incontri, masterclass, un'installazione molto bella all'ingresso di Villa Medici, negli spazi espositivi, sempre di un'opera appunto di un esperimento multimediale cambogiano legato al nostro ospite Ritipan, appunto qui, sempre qui a Villa Medici, durante tutta la rassegna. La scelta di queste tre aree geografiche? Ma in realtà ogni anno ci appunto investighiamo, indaghiamo un po' intorno al mondo, ritroviamo registi, nuovi film, nuovi volti. L'anno scorso abbiamo invitato il Maghreb con un altro bellissimo invito, e quest'anno ci siamo raccolti attorno all'Indocina, anche se in realtà appunto abbiamo fatto una scelta più limitata di tre paesi, perché in 8 giorni, ahimè, purtroppo i film da programmare erano molto, e quindi ci siamo concentrati soprattutto sulla Cambogia, come dicevo, con un invito molto molto importante, di cui siamo molto felici, che è appunto quello al regista cambogiano Ritipan. Senti, oltre ai luoghi, quali sono stati i criteri di selezione delle opere? Ma Cinemondo si compone di più sezioni, per cui c'è veramente una scelta editoriale, soprattutto una scelta legata ai nuovi volti, ai nuovi registi, e per cui alle nuove opere prime, ma soprattutto è ritmata appunto da queste sezioni, che sono un grande panorama che ripercorre un po' i film più caratteristici di ogni paese, uno spazio doc che accoglie alcuni documentari, soprattutto degli ultimi 2 anni dei paesi invitati, un omaggio che appunto ricordo Ritipan con quasi l'integrale dei suoi film, e una carte blanche, una sezione molto particolare a cui teniamo particolarmente. Senti, a questo punto ti chiedo i riferimenti internet per la programmazione. Sì, allora beh, possiamo ritrovare tutte le informazioni sul sito dell'Accademia villamedici.it. Il programma è distribuito in tutta la città, ricordo come sempre, di cui siamo particolarmente felici di questo lavoro, tutti i film sono in versione originale, sono sottotitolati in italiano e il biglietto d'ingresso è di soli 5 euro per ogni proiezione. Bene, Francesca, ti ringrazio e a presto. Grazie a voi, arrivederci. Ciao. Francesca Bolognesi, organizzatrice del quarto Cinemondo, il cinema in Cambogia, Laos e Vietnam, all'Accademia di Francia a Roma, a Villa Medici, dal 27 novembre oggi fino al 3 dicembre. Ed eccoci nuovamente, come ogni anno, con Alberto Lastrucci, direttore della 55esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze da domani 28 novembre fino al 5 dicembre. Ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno Visionari. Alberto, un festival della durata da 55 edizioni è una cosa spropositata. Raccontaci un po' in breve qual è la storia di questa manifestazione. Tengo a precisare che non le ho fatte tutte io. Certo. Sarebbe una fatica un po' troppo forte, diciamo. Dicevi, scusa? Dicevo, per chi ci ascolta, quali sono chiaramente le caratteristiche di questo festival? Ma quest'anno il Festival dei Popoli si propone di fare un po' il punto su cos'è oggi il cinema documentario, andando a selezionare tra i film che ci sono arrivati durante l'anno quelli che ci sembrano caratterizzati da uno stile innovativo, da una narrazione che sfugge dagli schemi e dagli stereotipi, ovvero che ci mostra senza particolari sovrastrutture quello che è la realtà che ci circonda, e quindi è anche un'occasione di approfondimento per temi, situazioni, storie, diciamo, che riguardano un po' tutti, riguardano tutti noi, anche quando queste storie paradossalmente si svolgono dall'altra parte del pianeta. Quanti sono i film, i documentari che presenterete in questa edizione? Sono 83. Distribuiti su tre sale per l'arco di 8 giorni, come già ricordavi, quindi un programma abbastanza denso, e naturalmente per tutti gli frequentatori del festival vale l'invito a operare una scelta, a fare crearsi un proprio percorso all'interno di un festival che è impossibile da vedere interamente. E per questo una novità, una tra le tante novità di questa edizione, è che oltre alle classiche sezioni del concorso, del panorama e delle sezioni collaterali, abbiamo indicato anche una serie di percorsi tematici. Sì. Che possano aiutare lo spettatore a orientarsi: se predilige per esempio il tema ambientale troverà film a tema ambientale, se gli interessa più l'attualità, la storia, la politica, eccetera. Ah, ecco, infatti una delle domande che volevo farti, che mi veniva in mente, è se ci sono temi ricorrenti in questi 83 lavori che avete che presenterete in quest'anno. Certo, va da sé che un film nella sua complessità poi va a finire che tocca diverse sensibilità e diversi argomenti. Noi ne indichiamo uno in modo da semplificare la vita allo spettatore. Sì. E indicando, diciamo, temi che possono essere di grande interesse per il pubblico più vasto, quale quello che ci auguriamo che ci verrà a trovare. Un'altra curiosità legata proprio all'archivio, visto che parlavi insomma di questo aspetto, è fruibile in qualche modo il vostro archivio? Al momento purtroppo no. Ed è un grande peccato. Il Festival dei Popoli conserva 17.000 titoli che si sono andati ad accumulare in punto in 55 anni di attività. Sarebbe bellissimo che Firenze e tutta l'Italia si potesse dotare di un centro di documentazione, perché arricchirebbe tantissimo il lavoro degli studiosi, dei ricercatori, degli studenti universitari e non. In qualsiasi ricerca universitaria c'è, voi mi insegnate, a fine testo c'è una bibliografia. Noi vorremmo che ci fosse anche una videografia con certo. I film che sono serviti a quel particolare studente o studioso. E c'è anche da dire che sfido in 17.000 titoli a non trovarne almeno uno che non sia di pertinenza con quelli che sono i motivi della ricerca. Sì. Alberto, per quanto riguarda gli ospiti, ne sono previsti? Certo, abbiamo, da domani cominceranno ad arrivare tutti a Firenze tutti gli ospiti del concorso internazionale, che presenteranno naturalmente i loro film in sala, i film del panorama italiano anche, e poi ci sono diciamo gli ospiti più prestigiosi, quelli a cui abbiamo dedicato la retrospettiva e gli omaggi. Si tratta del cineasta olandese Joost de Putter, a cui il festival dedica per la prima volta in Italia la retrospettiva completa, e poi invece due grandi artisti che arrivano dalla Francia, Vincent Dietre, a cui il festival dedica un omaggio, e un'artigiana del cinema, così l'abbiamo voluta definire perché così a lei piace essere definita, Dominique Auvray, che è stata la montatrice di tantissimi capolavori del cinema francese, in primis i film di Marguerite Duras. Ho una tua impressione sul lavoro dei documentaristi italiani in questo momento storico? Il lavoro dei documentaristi italiani naturalmente risente del clima di difficoltà, sia produttive che, ahimè, distributive. E è un nostro punto dove ribadire ogni volta che il pubblico per il film documentario esiste e lo stanno a dimostrare gli spettatori nelle nostre sale, quindi vorremmo che questi film avessero una circolazione più ampia, e quest'anno il festival ha puntato a incoraggiare questo attraverso due premi paralleli che verranno assegnati al miglior film italiano da due diverse giurie. In un primo caso si tratta della distribuzione in home video del film vincitore, che verrà fatta con CG Home Video, il nostro partner da alcuni anni, e la seconda invece è una novità, si tratta del premio Gli Imperdibili, che il cui film vincitore verrà presentato nelle sale d'esse della Toscana, che sono ben 41. Niente male. Ci rendiamo conto che questo è soltanto l'inizio per arrivare a una distribuzione più capillare, ma credo che in Toscana questo è fattibile grazie già alle risorse disponibili sul territorio, e credo che portare un film documentario italiano o straniero in casa degli spettatori o nella sala della città, della provincia, sia un modo per far vedere come questi film sono capaci di attirare un pubblico molto eterogeneo. Ci salutiamo con la richiesta dei riferimenti internet a questo punto per la programmazione. Festivaldeipopoli.org. Benissimo. Trovate il programma e tutte le indicazioni. Sei stato puntualissimo ed efficace, Alberto. È sempre un piacere, un abbraccio e a presto. A presto. Ciao. Ci aspettiamo a Firenze. Sì, ciao ciao. Alberto Lastrucci, direttore della 55esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 28 novembre al 5 dicembre. Bene, allora dovremmo essere in collegamento con Michele Ailaic, che è uno dei registi protagonisti della rassegna qui a Roma. Teniamoli d'occhio, 7 autori per 21 proiezioni. In 6 sale del Lazio, cominciata il 25 novembre, martedì scorso, andrà avanti fino al 12 dicembre. Dicevo Roma, ma in realtà è estesa a tutto il Lazio. Michele, ci sei? Sì, ci sono. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi dell'invito. Allora, mi sembra un'operazione piuttosto interessante e curiosa. 7 autori per 21 proiezioni, come è strutturata, come è pensata, Michele? Guarda, sono stati scelti 7 registi che hanno appunto fatto un film recentemente, che è uscito magari in un periodo in cui proprio la stagione cinematografica italiana non era proprio iniziata. Per esempio il mio è uscito l'11 settembre, la stagione inizia più o meno verso ottobre, quindi insomma purtroppo il film è durato poco in sala, quindi è un'opportunità per i registi di portare il proprio film anche al di fuori dei centri più grandi, dei capoluoghi di provincia dove sicuramente è stato proiettato già, e quindi di permettere a un pubblico che solitamente non vede il cinema italiano perché proprio non ha una possibilità concreta di andarlo a vedere, di assistere a una proiezione, di confrontarsi anche direttamente col regista. Facendo un po' di calcoli, 7 autori, 21 proiezioni vuol dire 3 titoli a testa. tre titoli, di cui uno è il film dell'autore, gli altri, la cosa questa è interessante, secondo me molto originale, è il fatto che ogni autore sceglie, ha la possibilità di scegliere altri due film, da una lista di film tra quelli della Cineteca di Bologna e altri che si possono recuperare. Nel mio caso ho scelto un film di Monicelli del 60 che è Risate di Gioia, e un film di 3 anni fa di Jacques Audiard che si chiama Un sapore di ruggine e ossa, che è stato distribuito in Italia da Bitma, che è lo stesso distributore del mio film. Sì. Oh, Michele. Quindi, diciamo, l'iniziativa è interessante perché in qualche modo, oltre a conoscere il film del regista, conosci anche l'ispirazione, i film di riferimento, insomma, in qualche modo. Oh, tutto nasce dalla rete degli spettatori di cui credo tu faccia parte. No, faccio parte. Ah, e... no, io sono uno degli autori scelti. Uno degli autori. Dalla rete degli esatto. Ok. Esatto. Senti, e questa. Se sai qualcosa appunto di della rete degli spettatori, le sue insomma caratteristiche, le cose che conosci di questa esperienza. Ma diciamo che appunto loro mi hanno coinvolto quest'anno dopo che è uscito il mio film Senza nessuna pietà, che è il mio appunto la mia opera prima, e loro hanno non so quanti anni è che va avanti questa iniziativa, non credo molti, comunque diciamo hanno l'interesse di far sì che appunto gli autori giovani e anche meno giovani vengano possano confrontarsi col pubblico, come ti dicevo, della provincia, quindi un pubblico che purtroppo non ha la possibilità di vedere i film che magari non rientrano nei film più popolari, quindi quelli che hanno una distribuzione più ampia, che possono essere in questo periodo, come sai benissimo, sono maggiormente le commedie. E quindi tra i registi scelti quest'anno c'è Edoardo De Angelis col film Perez, che era a Venezia anche questo, come il mio. C'è Francesco Munzi con Anime Nere e altri quattro di cui ora francamente non ricordo il nome, però insomma ecco, la loro iniziativa secondo me è molto importante, dal momento che il grosso dramma del cinema italiano in questo momento non è tanto la difficoltà di mettere in piedi il film, cioè di finanziare il film, perché comunque alla fine modo se uno ha una storia forte da raccontare e un percorso solido riesce ad arrivare poi a farlo il film. La grossa difficoltà è permettere al film di avere una vita dignitosa in sala, che come puoi immaginare è una cosa fondamentale. Sì. Michele, martedì scorso, il 25 novembre, c'è stato il primo incontro di cui sei stato protagonista. Ti chiedo com'è andata. Guarda, è andata abbastanza bene, non era certo quello che tutti speravamo, perché purtroppo siamo capitati diciamo in una multisala che aveva già quattro sale occupate con due o tre commedie o film diciamo più mainstream, e non c'era stata una forte comunicazione in questo senso da parte della sala sull'evento che mi riguardava, insomma, con la proiezione del mio film e degli altri due film da me scelti. Mm-hmm. Questo purtroppo dipende dal fatto che la visibilità è tutto, quindi le persone non è che scelgono di non vedere un film e di andare a vedere un altro e di entrare in un'altra sala, ma semplicemente non sono a conoscenza di quello della possibilità di vederlo, di vedere un film che non è possibile vedere altrimenti, insomma. Senti, che ne sarà del tuo film che è stato in sala, dicevi, in un periodo un po' complicato, in futuro avrà una vita, anche un'altra forma di distribuzione? Guarda, noi siamo usciti appunto, come dicevo, l'11 settembre con BIM, siamo stati in concorso a Venezia, siamo stati in concorso a Toronto, che comunque per me chiaramente è una grandissima soddisfazione, perché sono due festival molto prestigiosi. Abbiamo un distributore internazionale che si chiama Indie Sales, che è appunto un distributore francese, che sta cercando di venderlo in vari paesi, quindi per avere poi una distribuzione in altri paesi. Questo è il percorso del film. Bene. E poi vari festival, che chiaramente sono festival minori rispetto a questi due che ci hanno nominato, che sono comunque una grande chance per allungare la vita a un film come il mio, insomma. Mm-hmm. Senti, ci puoi lasciare anche dei riferimenti internet per saperne di più sulla tua opera? Guarda, c'è la pagina Facebook di Senza Nessuna Pietà, che devo dire comunque è abbastanza seguita, e spero ci possano essere altre occasioni anche a Roma o nelle grandi città di poterlo rivedere. Sicuramente la pagina sarà aggiornata in questo senso. Benissimo, un abbraccio Michele, a risentirci alla prossima. Grazie mille, a presto. Ciao. Ciao. Il regista Michele Ailike sulla rassegna Teniamoli d'occhio, 7 autori per 21 proiezioni in 6 sale del Lazio, da martedì scorso 25 novembre fino al 12 dicembre. Costanza Quatriglio, regista del documentario Triangle, presente al 32esimo Torino Film Festival. Costanza, ben ritrovata. Sì, ciao. Ciao, come va? Va bene, Torino è sempre bello stare qui. Senti, com'è andata? Come sono andate le prime proiezioni? Guarda, la proiezione ieri, io ero presente a quella delle 17.30 con Paolo Virzì, è andata molto bene, è stato... Devo dire una cosa sorprendente, anche l'incontro successivo. Bene. Perché lui è un narratore, quindi insomma sa tirare fuori le cose, no? Davvero molto molto bello. Per chi ci ascolta, che storia hai raccontato? Guarda, ho raccontato una storia impossibile per certi versi, perché mettendo insieme l'incendio della fabbrica Triangle di New York del 1911, in cui sono morte 146 operaie che lavoravano nel tessile, e quando prese fuoco praticamente l'ottavo piano di un grattacielo lì al centro della città, e il crollo della palazzina di Barletta del 2011, sostanzialmente faccio partire queste due storie che vanno da sole, no? In qualche modo si fa esperienza di questi due eventi e si racconta che cos'è stata la fine sostanzialmente della civiltà del lavoro del Novecento. Mm-hmm. Cioè, perché queste due storie hanno in comune la condizione dell'essere umano. Mm-hmm. La condizione dell'essere umano, dell'operaio che lavora alla macchina, sostanzialmente identica, soltanto che manca il contesto, cioè il contesto che è diverso. Cioè, da un lato c'era tutta una promessa di modernità, di futuro, di speranza, no? Attraverso una schiavitù che si andava via via chiarendo nei rapporti di forza, con il taylorismo, appunto con la fabbrica dei primi del Novecento, e tutta questa schiavitù ha permesso, cioè il conflitto ha permesso di costruire quella che è stata poi l'emancipazione, no? Sì, per certi versi, la consapevolezza dei propri diritti da un lato, e poi qui intorno a noi invece c'è il vuoto pneumatico, quindi questa palazzina che crolla è come se crollasse tutto sostanzialmente. Mm-hmm. La mancanza totale della percezione dei propri diritti. Ecco, dicevi schiavitù, perché in quell'incendio fu anche questa strage fu possibile perché le operaie intanto erano ce n'erano diverse di italiane, erano tutte donne ed erano state chiuse dentro perché per paura che portassero fuori i tessuti. Sì, sostanzialmente sì, erano chiuse a chiave al nono piano, per cui è successa veramente una cosa allucinante, cioè queste donne si sono ritrovate chiuse a chiave dentro una stanza che prendeva fuoco, e molte per scappare si sono proprio buttate dalla finestra tipo 11 settembre. Infatti diciamo nella città di New York il trauma di quell'evento è stato per molti anni molto vivo, no? Quasi fosse appunto una cosa apocalittica, no? Le persone si buttavano dalle finestre, sì. Per questo ho voluto fare questo film, sostanzialmente, perché dal punto di vista figurativo mi permetteva questa magnificenza e grandiosità di questa New York che si ergeva verso l'alto, verso il cielo, e mi permetteva di fare un ragionamento anche proprio visivo, no? Perché a Barletta quello che è crollato è proprio un palazzo. Mm-hmm. Per cui è come se tutta questa, come dire, verticalità, questa magnificenza di New York fosse poi, come dire, sintomatica di una forza che poi ha tradito, no? Ha tradito completamente, per cui oggi c'è il vuoto pneumatico, le palazzine crollano, i palazzi crollano, la gente muore, i diritti non ci sono, sostanzialmente non solo non ci sono i diritti, ma non c'è neanche la percezione di averne bisogno, che è agghiacciante per certi versi. Se la schiavitù fosse interiorizzata. Tra l'altro quell'episodio segnò anche la data poi presa per festeggiare la festa delle donne, l'8 marzo, una data simbolo. E fatte però le dovute differenze, lì in una città internazionale come New York ci fu una grossa ondata poi di scioperi e di lotte per appunto per i diritti, perché non si morisse più di lavoro così. E una realtà così piccola invece come quella italiana che racconti, la differenza è la totale mancanza di conflitto. Sì, esattamente, ma in realtà Barletta è una delle tante città odierne dove la postmodernità è diventata sostanzialmente il buco nero di una civiltà che è implosa, per cui la mancanza di conflitto da un lato nasce proprio dall'aver interiorizzato una condizione di schiavitù, dall'altro lato alimenta la stessa condizione di schiavitù, perché la mancanza di conflitto va a finire sostanzialmente nella devozione al datore di lavoro, perché il datore di lavoro in una filiera frammentata come quella della post-globalizzazione è sostanzialmente un povero come te. Sì. Cioè il datore di lavoro è tuo fratello, la differenza magari che c'ha tipo due macchinette da cucire e ti dà da lavorare in nero e quindi lo devi pure ringraziare. Questa è la grande assurdità. E poi la cosa stranissima davvero, quando io ho avuto l'intuizione di mettere insieme queste due storie, chiaramente mi sono anche un po' spaventata, no? Perché non volevo fare, come dire, una film a tesi di quelli che proprio già sanno tutte le risposte, no? Quindi ho cercato di capire effettivamente se avesse senso o meno, e poi via via che lavoravo mi sono resa conto che non solo aveva senso, ma era anche sorprendente, perché c'erano dei punti di contatto esageratamente palesi. Cioè il ritorno del lavoro a cottimo, piuttosto che anche l'orgoglio del saper fare, no? Del lavoratore, della lavoratrice che sa fare bene il suo mestiere, no? Questa cosa, che è proprio la condizione del lavoro, che è il contesto che è pessimo, ma il saper fare in realtà c'era allora e c'è adesso. Sì. Un altro aspetto è quello del lavoro nero considerato la normalità. Assolutamente, è considerata la normalità il lavoro nero, è considerata la normalità non avere un contributo, è considerata la normalità lavorare in un posto non a norma, è considerata la normalità tutto. E questa la sensazione netta è che la questione non è soltanto diciamo del diritto, no? Cioè manca, cioè chi lavora così manca di percepire i propri diritti, perché non ne sente la necessità quasi, per certi versi. La questione è ancora più profonda, secondo me, cioè il senso di schiavitù interiorizzato fa venire meno la percezione dei propri bisogni, i bisogni proprio quelli dell'anima, i bisogni individuali, i bisogni più privati, i bisogni proprio dell'essere umano. E per cui mancando la percezione dei propri bisogni, di fatto manca anche la possibilità di proteggerli, questi bisogni, attraverso una rivendicazione di diritti, perché il diritto non corrisponde al bisogno, cioè il diritto è qualcosa che viene sostanzialmente riconosciuto da fuori, no? Mentre il bisogno è una cosa proprio personale. E questo io l'ho imparato lì, ovviamente, perché non ci avevo mai pensato a una cosa del genere. L'ho imparato frequentando loro, frequentando l'unica sopravvissuta tra le operaie, che si chiama Mariella Fasanella, che mi ha permesso, proprio perché è sopravvissuta, di ragionare insieme a lei e di fare con lei un percorso di consapevolezza via via, no? di che cosa stavamo parlando. Senti, Costanza, come dicevi della rivendicazione, sulla rivendicazione di un diritto, ecco, in assenza però di questa rivendicazione la conseguenza è un continuo arretramento rispetto a poi alle condizioni di lavoro, sì. È qualcosa di inevitabile da questo punto di vista. Sì, c'è una specie di arretramento vero. Per cui sostanzialmente io ho incontrato persone che lavorano in una condizione quasi preindustriale, a casa, proprio con un cottimo di centesima mano, e questo molto doloroso, no? E io per certi versi l'ho anche, come dire, suggerito nel film, perché poi queste due storie camminano parallele e poi a un certo punto proprio si va indietro, no? Sì. Visivamente le immagini vanno indietro, c'è tutto un montaggio per cui senti proprio che si dovrebbe proprio ricominciare da capo a ripensare i rapporti di forza, cioè ripensare la civiltà del lavoro, che è chiaramente stata, non c'è bisogno che lo dico io ovviamente, no? Che si basa sui rapporti di forza, cioè sull'oppressione sociale che è frutto dei rapporti di forza. Questi rapporti di forza sono falliti, cioè hanno prodotto il fallimento. Costanza, una delle caratteristiche di alcuni tuoi lavori è l'uso che fai del materiale d'archivio a cui riesci a dare nuova vita. Qui hai fatto uso di immagini molto belle, e anche qui grazie anche a un bel lavoro di montaggio. E che tipo di utilizzo che accesso hai avuto ai materiali d'archivio? Ma io ho cercato gli archivi americani, chiaramente sono andata, li abbiamo cercati diciamo negli archivi di Washington, che è l'archivio nazionale, e molte cose le sono arrivate dalla Cineteca del Friuli, che aveva delle bellissime immagini americane, e poi ovviamente c'è anche Luce, che aveva delle cose molto belle, e insomma sono tanti archivi, diciamo tantissimi, e combinati fra loro, perché sono veramente molti. E il materiale relativo alla Triangle è custodito all'interno di un archivio che sta nella Cornell University in America, e dove hanno un giacimento, come si dice, hanno proprio una sezione solo dedicata all'evento del 1911. E lì ho scovato l'audio originale delle sopravvissute intervistate negli anni 50, quindi a 40 anni di distanza, e ho usato quel materiale lì. Io ho usato quel materiale, diciamo, come audio che dialoga sia con le immagini di repertorio dell'epoca sia con le immagini di oggi, proprio in questa moltitudine di voci che poi è caratteristica del film, anche come servizio alla memoria storica, sicuramente. Sì, per certi versi sì, devo dire che quel materiale è emozionante anche solo per come è registrato, no? Anche la pasta del sonoro è bella, non si capisce niente, non si sente niente, però è bellissimo. Non è vero, si sente, l'abbiamo reso ascoltabile. Costanza, cosa sarà del tuo documentario? Questo film, vabbè, sicuramente uscirà nelle sale, si spera, con una buona distribuzione. Stiamo veramente vigilando perché la distribuzione sia buona. L'Istituto Luce sembra volerlo fare dopo Natale. Speriamo, perché insomma bisogna stare molto attenti che non venga perso. E poi si sta anche lavorando per una bella messa in onda, perché il film è stato voluto anche da Paolo Malanga di Rai Cinema, che ha, credo insomma, ha detto più di una volta che lo vuole mettere, far andare in televisione molto bene, quindi io davvero confido che questo film si veda bene, e anche molto, spero, chiaramente. Costanza, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Va bene, grazie. Ciao. Grazie, tanti saluti. Costanza Quatriglio, regista del documentario Triangle al 32esimo Torino Film Festival. In linea con la Nomad Film Distribution per parlare del documentario Master of the Universe, che esce in sala oggi giovedì 27 novembre. C'è poi una doppia proiezione qui a Roma al Piccolo Cinema America alle 19 e alle 21:30. Ne parliamo con Alessandra, ci sei? Ciao come va? Ci sono. Ci sei, come va? Tutto bene? Tutto bene, sì, alle prese con i preparativi per l'uscita, appunto, sì. Allora, per chi è all'ascolto, diciamo anche diamo qualche traccia di trama di questo documentario, Alessandra. Sì, senz'altro, il film è un documentario shock di Mark Bauder, che è un regista, un documentarista tedesco, il quale è al suo ottavo documentario. Sono le rivelazioni shock di un broker spietato che si chiama Rainer Foss all'interno di questo, di questa Francoforte desolata, perché il film è ambientato in una banca, in un ex edificio abbandonato di Francoforte, quindi anche molto, molto suggestiva la cornice della, diciamo, del film. Quindi questo ex broker, questo Foss, racconta i misteri, diciamo, dietro la bolla finanziaria, i misteri delle banche, quindi rivela alcune verità di un universo finanziario, di un mondo finanziario che non tutti conoscono, ecco. Ecco, proprio a questo proposito, per chi è digiuno di meccanismi finanziari è facilmente comprensibile? Sicuramente facilmente comprensibile, perché il linguaggio utilizzato per il film è un linguaggio molto cinematografico, un linguaggio molto da appassionati di cinema e non solo di appassionati di economia, quindi riesce a raggiungere e a coinvolgere diversi target diversi, ecco, con un linguaggio molto, molto da cinema. Senti Alessandra, come Nomad Film, come avete incontrato questo lavoro? Ma Lidia Genchi, la titolare appunto di Nomad Film Distribution, ha visto questo film al Festival di Locarno, quindi è rimasta subito colpita dalla forza sia dei contenuti che dal linguaggio appunto molto scorrevole della narrazione. Per cui ecco, c'è stato prima questo passaggio al Festival di Locarno e poi successivamente, vedendo il successo anche sia perché all'interno di Locarno poi ha vinto nella sezione la Semen della Critique, successivamente è stato candidato agli European Film Award, quindi il 13 dicembre peraltro usciranno i risultati, quindi incrociamo le dita, e insomma è stato un incontro che poi ha seguito ad altre curiosità. Senti, le tesi di questo broker, io penso ancora non l'ho visto, mi sa che lo vedrò proprio stasera, è praticamente sullo strapotere delle banche, sono quelle che hanno determinato la crisi economica degli ultimi anni. Sì, sicuramente il focus è sul potere, quindi anche sugli abusi da parte delle banche, ai danni poi dei singoli, ai danni della società, e fa anche una sorta di profetizza, diciamo, sia il regista che il protagonista del film, quindi Rainer Foss, profetizzano anche delle successive crisi o delle, diciamo, ancora dei disastri finanziari che purtroppo ci attendono. Quindi anche il bello, diciamo, del film è che non è soltanto un documentario, è una sorta di thriller film fantascientifico, per cui attraversa diversi generi per raccontare poi una verità bancaria. Oh, se non sbaglio, se ho letto bene, avete pensato anche a una nuova forma di distribuzione online. Sì, in realtà questo Master of the Universe fa parte di un progetto europeo che si chiama Tide, che prevede l'uscita di alcuni film europei in diversi paesi, quindi per confrontarci anche sui diversi meccanismi e per vedere quali sono i risultati in diversi paesi. Aderiscono la Francia, la Germania, l'Italia, la Spagna, quindi sono diversi distributori di tutta Europa che sono coinvolti in questa iniziativa. E oltre sia a distribuirlo secondo la tradizionale maniera, quindi il theatrical, quindi la distribuzione cinematografica, lo distribuiamo anche online, quindi il film sarà poi visibile sia su My Movies che su Mubi, quindi sicuramente anche dei canali online che possono arrivare a un pubblico sempre maggiore, quindi sicuramente c'è l'apertura dei meccanismi anche che vanno verso il futuro della distribuzione. Tornando alla doppia proiezione di questa sera, se non sbaglio avete preparato anche una clip di presentazione. Sì, c'è una clip di presentazione che vedrà un intervento di Rainer Foss, appunto il protagonista, l'ex broker, che attraverso un collegamento su Skype racconta qualche chicca e qualche altra, diciamo, profetica visione del mondo finanziario odierno, e quindi qualche curiosità in più, in effetti. E poi ci sarà anche un intervento, però stasera poi al Kino alle 21, anche del regista del film, quindi Mark Bauder, perché ricordo le sale su Roma sono tre, quindi per vedere il film. E poi la settimana prossima c'è una quarta sala, quindi se vuoi le riassumo. Vai, diccele a questo punto. Vabbè, primo la piccola America 19, 21 e 30, come hai detto tu prima, al Chino alle 20:30 e 22:30 e via Perugia 34 e al Detour in via Urbana 107 alle ore 21. Settimana prossima al cinema Tiziano invece il 4 dicembre alle ore 18:30 e alle 22:30. Benissimo, ci sono anche riferimenti internet per saperne di più, vero, per la Nomad? Assolutamente sì, il sito che è nomadfilm.it e anche la pagina Facebook che utilizziamo moltissimo sia per pubblicare clip, curiosità sui film in uscita di Nomad, che anche poi le sale e tutti, diciamo, tutte le sale di proiezione di Master of the Universe e poi dei film a venire, insomma, quindi vi invitiamo tutti a seguirci. Benissimo, Alessandra, un abbraccio e a presto. Grazie, un abbraccio a te, ciao Federico, grazie, ciao, ciao. Ciao a tutti. Alessandra della Nomad Film Distribution sul documentario Master of the Universe in uscita in sala giovedì 27 novembre. Vi ricordo la doppia proiezione alle 19, alle 21:30 al piccolo cinema America, via Natale del Grande a Trastevere. Torniamo a parlare anche questa settimana di distribuzioni dal basso, di un documentario in particolare, Vite al Centro. Il coregista è Nicola Zambelli, che abbiamo al telefono. Nicola, ci sei? Sì, sì, ciao a tutte e tutti. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Beh, grazie mille per l'ospitalità. Beh, il tema era talmente interessante che non potevamo farne a meno. Vite al Centro, di cosa si parla, Nicola? Vita al Centro è un documentario che abbiamo realizzato per parlare della, diciamo, della questione delle liberalizzazioni nel mondo del commercio, e in particolar modo il documentario, che è un progetto appunto di autoproduzione, quindi realizzato con alcune realtà locali, associative delle nostre zone, quindi è un documentario ambientato nel nord Italia, in particolare nella zona di Brescia, Bergamo, che è una delle zone con più alta densità di centri commerciali. E il tentativo era quello di riflettere su alcune questioni legate alla trasformazione del mondo del lavoro, e in particolar modo con riferimento appunto alle liberalizzazioni e a come le normative introdotte dall'ex premier Monti, e quindi con questa appunto possibilità di aperture illimitate degli spazi commerciali, avessero cambiato o stessero cambiando le forme di vita, in qualche modo le abitudini delle persone e il modo di lavorare negli spazi dei grandi centri commerciali in riferimento a come, insomma, si lavorava prima, quindi nel mondo del commercio. E il tentativo è stato appunto quello di raccontare alcune vite, attraverso alcune testimonianze. In particolar modo abbiamo cercato di riflettere sulla condizione del lavoro femminile, perché sicuramente è quella che in generale paga il prezzo più alto nei momenti di trasformazione del mondo del lavoro. Mm-hmm. E in particolare abbiamo anche cercato di approfondire la questione, insomma, delle famigerate domeniche del tutto aperto, insomma del 7 giorni su 7, e delle nuove possibilità introdotte dalla riforma voluta da Monti. Come vi siete mossi? Come avete scelto le vostre interlocutrici e come avete poi girato? È stato un po' problematico, perché in realtà il documentario nasceva dall'esigenza di voler riflettere sulla città di Brescia, e in particolare volevamo concentrare l'attenzione su alcuni spazi abbandonati nella città di Brescia, che è stata per tanti anni una sorta di capitale dell'industria, perché comunque è una città molto piccola, ma che è cresciuta sull'industria pesante, sull'industria metallurgica. E ovviamente noi sappiamo che i nuovi centri commerciali, i nuovi spazi commerciali sorgono proprio nelle aree dismesse, quindi volevamo un po' riflettere su anche la trasformazione urbanistica della città, che è una trasformazione comune a tante città italiane. Ma il tentativo era quello di fare poi un documentario su un centro commerciale in particolare, che è molto emblematico per la città, ma questa cosa ci è stata resa impossibile proprio dal fatto che gli spazi commerciali, pur essendo appunto considerate le nuove piazze in cui, insomma, la vita sociale si riproduce sono dei luoghi privati e quindi non è possibile poi diciamo fare riprese o avere la libertà di movimento. Per cui abbiamo cercato di lavorare a margine ascoltando un paio di storie, quindi seguendo un paio di persone in un momento di trasformazione della loro vita, che sono le due protagoniste, Beatrice ed Alice, due coinquiline, una che aveva deciso di sposarsi, l'altra che finalmente aveva deciso di mollare il suo lavoro in una gioielleria, in un centro commerciale, per appunto aprire un'attività in proprio. E quindi abbiamo cercato di dialogare con loro in questo momento di passaggio della loro vita, per cercare di sottolineare appunto queste tematiche che insomma dicevamo prima, riferite al loro lavoro. E appunto allora abbiamo cercato di interloquire anche con altre ragazze, coetanee, giovani, e poi abbiamo fatto tutta una serie di interviste a esponenti del sindacato, piuttosto che urbanisti, architetti, per riuscire a cercare di fare un parallelo tra la trasformazione della vita di queste giovani donne collegata con la trasformazione della città, e cercare di capire quali sono gli spazi poi che sono concessi per la vita delle persone, per la loro crescita, cercando un po' di fare anche un po' una metafora con la trasformazione urbanistica che le città stanno attraversando. È un tentativo stato molto complicato, molto faticoso, anche perché l'abbiamo realizzato in autoproduzione, quindi facendo tutta una campagna di promozione del documentario in giro per l'Italia, facendo proiezioni pubbliche, cercando di raccogliere, poi anche confrontarci con altre esperienze, altre realtà territoriali. E quindi è un po' stato un po' anche una per noi una un tipo poi di approccio, di metodo di lavoro, di confronto, quindi c'è anche una dimensione politica insomma, in questo lavoro. Nicola, quali sono gli elementi centrali di queste nuove forme di sfruttamento, per come l'hai viste e vissute? Le nuove forme di sfruttamento sono basate su, diciamo, su quello che poi degli economisti con cui abbiamo parlato, che è Andrea Fumagalli, ricorda sempre, insomma, nella nostra condizione, diciamo, di neoliberismo è la vita delle persone che viene messa a valore, e quindi attraverso svariate forme di ricatto le persone si trovano obbligate a dover, come dire, a doversi inchinare a delle forme di controllo e di sfruttamento che sicuramente sono molto più sofisticate di prima, mentre prima c'era appunto nella fabbrica la catena di montaggio. Oggi questa catena di montaggio è una catena di montaggio molto interiorizzata, in qualche modo, nel senso che le persone diventano sfruttatrici di loro stesse in un contesto in cui molto spesso si pensa che appunto ci siano molti più margini di libertà e di possibilità, ma magari ci si trova a lavorare non lo so, penso nei centri commerciali, si lavora magari in una condizione ovviamente come dire, di subordinazione, però magari con dei contratti a tempo indeterminato ma a chiamata, e per cui le persone vivono una situazione paradossale di grandissimo sfruttamento, però senza nessun tipo di tutela. E quindi in qualche modo le forme di controllo che avvengono poi per esempio nei grandi centri commerciali sono basate su una grandissima forma di debolezza, in cui poi il lavoratore si trova a dover costantemente cercare di dimostrare se stesso di valere qualcosa, quando poi in realtà le possibilità di crescita e di migliorare la propria condizione sono precluse, insomma. Senti, per quali Nicola, quali sono le forme di visibilità e come sono le condizioni online per distribuzioni dal basso, per vedere il vostro lavoro? Ma noi abbiamo sia dei siti dedicati dei nostri film, quindi c'è sia un sito www.vitalcentro.it, ma sia su una piattaforma di distribuzione dal basso.com è possibile o richiedere un DVD oppure scaricare il file del documentario, e attraverso un sistema di donazioni è possibile visionare e ottenere una copia. E poi in generale, come ci capiterà stasera, cerchiamo di organizzare grazie a questi documentari, sono delle riflessioni pubbliche, per cui cerchiamo di organizzare delle proiezioni, e oggi saremo presenti a Mantova con i compagni di Ecoal fare appunto una proiezione di Vital Cendro, sarà anche un modo per poi discutere, dibattere delle tematiche che vengono sollevate dal documentario. Benissimo. Comunque sia tramite internet oppure proiezioni pubbliche. Bene, bene. Nicola, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Va bene, grazie mille, grazie a voi. A presto. A presto, ciao. Ciao. Nicola Zambelli, co-regista del documentario Vite al Centro, per Distribuzioni dal Basso. Chanel Agura, presidente del Kino Cabaret Italia, per parlarci della seconda edizione qui a Roma dal 29 novembre al 4 dicembre. Ma Chanel, ciao! Ciao, buonasera. Ben ritrovata, come stai? Bene, grazie. Ho passato un po' di influenza, però adesso va meglio. Ok, grazie. Allora ci passiamo la palla velocemente, così, sì. Così non si sente troppo il tuo problema con la voce. Va bene. Allora Chanel, ci eravamo sentiti per la prima edizione, ricordiamo a chi ci ascolta cos'è questo Kino Cabaret. Allora, praticamente è un cinema partecipativo dove le squadre di cinema si incontrano dentro un contesto della settimana e poi questi incontri escono delle squadre di lavoro. Ok. E questo è nato in Canada, come avevo già detto l'anno scorso, è nato in Canada da due registi che volevano affidare la pellicola facendo dei film corti efficaci a low budget. Ok. E l'hanno chiamato Kino Cabaret, poi è diventato famoso perché non è solo un fatto di, come dicevo l'anno scorso, di cinema, c'è anche il fatto sociale, divertente e poi creativo. La gente può veramente, un filmmaker può provare a fare dei film che mai una produzione gli darebbe i soldi, cioè è proprio magico perché è libero. Senti, facciamo un breve bilancio della prima edizione e parliamo poi di questa che state preparando. Beh, il bilancio della prima edizione è stato molto molto faticoso, nel senso che molto carino, cioè c'è stato 37 cortometraggi, cellule di tutto il mondo, c'era il Burkina Faso, c'era i tedeschi, i belghi, i francesi, finlandesi, polacchi, cioè no, è stato molto bello, molto, cioè, ma era molto faticoso, molto nel faticoso. Senso, creare un evento così grosso, così importante in una città come Roma non è stato facile. Mm-mm. Per niente. Infatti sei ancora ammalata per quella esperienza. Sì, infatti. Sì. Senti Chanel, e cosa state preparando per questa edizione? Come funzionerà? Allora, sarà tutto in primo municipio questa seconda edizione, perché abbiamo il patroncino dell'assessorato del Andrea Valeri del primo municipio, e quindi siamo al Quirinetto il 29 per l'apertura e inizia alle 18 per l'aperitivo, poi le proiezioni alle 19 fino alle 21, poi c'è anche un concerto, perché quest'anno la novità è mischiare la musica con il cinema. Senti, quanti saranno i partecipanti? Sono più di 40. Più di 40, insomma. Sì. Nutrito gruppo. C'è anche quelli del Canada quest'anno. Quest'anno c'è anche il Canada in aggiunta. Sì, i finlandesi, sì. Senti, com'è strutturata come sono strutturate le giornate? Dicene una tipo, ad esempio. Beh, tipo una giornata di prima di tutto, dopo l'apertura, il 30 ci riuniamo tra di noi, che sarà lo scoop alla Palestra Popolare, sì, a San Giovanni, e ci riuniamo tra di noi e lì si inizia veramente la presentazione, a vedere i progetti, quanto saranno, le squadre che si scelgono, le storie che dovrebbe essere create nell'arco della settimana, e poi si parte, c'è una giornata e sono dei set, cioè 30 set nella stessa settimana, quindi molto molto impegnativo, è veramente una settimana di fuoco intensa, 24 su 24. Bene. Chanel, ci dai in chiusura i riferimenti internet per tutte le informazioni? E ci possiamo trovare sul Luchino profilo, sul blog, c'è la pagina Chino Cabaret, anche c'è il sito è in preparazione, quindi non serve, però il blog si possono scrivere perfettamente su Twitter, su Facebook senza problema. Ok, allora venite a visitare pure la pagina di Visionari, così sì, creiamo sì. Una relazione. Sì. Sì. Va bene, Chanel, io ti ringrazio, un abbraccio, e quando ci sono novità ci sentiremo. E spero vederti il 29. Va bene. O il 2 o il 4 quando ci saranno le proiezioni. Ok. Grazie. Ciao. Chanel Agura, presidente del Chino Cabaret Italia, seconda edizione qui a Roma dal 29 novembre al 4 dicembre. Avremmo voluto sentire Alberto Fassina di Partenos per la distribuzione del film Vivian, che è in uscita in sala oggi giovedì 27 novembre, così non è, purtroppo, speriamo di averlo la prossima settimana. È tutto per Visionari di questo giovedì, l'appuntamento è sempre il giovedì dalle 14 alle 15, tutti i riferimenti li trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari. C'è anche la pagina Facebook di Visionari. Per comunicare l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete sentirci in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio. Sulla homepage c'è l'opzione Ascolta la diretta.